Avventurieri, avete scelto il sentiero. Più lungo, ma forse anche più saggio. Preparatevi. Vi attende un lungo cammino, durante il quale troverete 4 salite, ognuna delle quali richiede 10 minuti. 3 discese, da percorrere in 5 minuti l'una. 6 curve strette, che richiedono 2 minuti ciascuna. Quanti minuti vi serviranno per completare l'intero tragitto?